Valerio Verbano, sul compagno Valerio Verbano, ucciso a 19 anni dai fascisti nelle modalità atroci che moltissimi e moltissime di chi ci ascolta conoscono, ma forse qualcuno no. Valerio il 22 febbraio viene aspettato a casa sua, i genitori aprono perché uno dei due assassini, si qualificano come un suo amico, ingenuamente aprono, vengono immobilizzati e rinchiusi in una stanza e loro si siedono ad aspettare Valerio. Valerio arriva da scuola e quando entra si rende subito conto di quello che sta succedendo dal racconto dei genitori, che immaginiamo insomma quello che possono avere provato. Carla l'ha descritto, la mamma, tante volte, e sono nell'altra stanza, sentono la colluttazione, il disperato tentativo di Valerio di difendersi, gli spari e Valerio viene ucciso e muore su quel divano che la mamma ha sempre indicato in tutte le varie interviste come appunto il luogo dove Valerio ha espirato. E allora noi oggi, nel ricordarvi l'appuntamento di oggi pomeriggio del corteo alle 16.30 da via Montebianco, alle 17 da via Montebianco, allora mi ricorda il compagno che alle 16, come tutti gli anni, c'è un appuntamento, un fiore per Valerio davanti alla lapide che lo ricorda, appunto in via Montebianco, e poi alle 17, come tutti gli anni, partirà il corteo, che quest'anno avrà una caratterizzazione ulteriore perché si collega, come è giusto che sia, alla giornata nazionale di mobilitazione contro la costruzione del TAV in Val di Susa. E dicevamo che insomma le modalità di questo omicidio sono atroci: un ragazzo di 19 anni, un compagno, viene ucciso in questo modo. E noi questa mattina vorremmo fare qualcosa di un po' diverso, cioè ricordare qual era il clima di quei tempi. Il 22 febbraio dell'80 viene ucciso Valerio, la radio era chiusa, la radio era stata chiusa da un intervento della magistratura a gennaio, e però questo non ha impedito, ci mancherebbe altro, la mobilitazione immediata dei compagni e delle compagne, un grande corteo ai funerali di Valerio con cariche brutali della polizia, e ne parleremo in seguito. Vorremmo, dicevo, ricostruire appunto il clima anche servendoci delle pagine di alcuni giornali cui archivi sono presenti in rete, soprattutto l'Unità, anche per farvi capire appunto qual era la situazione e qual è stato proprio lo sporco lavoro di questi servi del potere. E quindi adesso vi facciamo ascoltare la canzone per Valerio, che la prendiamo dal concerto per i 30 anni della radio, e quindi partiamo con questa e poi continuiamo qui noi dai microfoni. Questo non è un corteo, perché va un po' più lento, si sentono i singhiozzi, da lontano un lamento. Questo non è un corteo, c'è troppo silenzio. Valerio, dove sei? Si fa sempre più aggressivo. amaro. Pagherete tutto, sì, pagherete caro. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Morti senza storia, ritorna il ricordo, sì, ritorna la memoria di vecchi partigiani e di grandi imprese. Questo ci ha regalato, sì, questo sporco paese. Questo non è un corteo, ma neanche un funerale. Stiamo tutti a pensare quanto sta vita male. Il fumo dei lacrimogeni si fa sempre più acre e amaro. Pagherete tutto, sì, pagherete caro. Beh, ce la ricordiamo tutti questa canzone per Valerio, e oltre che una canzone sentitissima da chi l'ha composta, interpretata con questa profondo amore per questo compagno. Però quello che vorremmo fare oggi è nel ricostruire il clima di quell'anno, di quegli anni, perché non è solo un episodio isolato questo di Valerio, e vorremmo anche mettere in risalto come nel tempo, in virtù di quella specie di oblio che subentra nel ricostruire, nel metabolizzare le vicende e la politica, tra virgolette o senza virgolette, questo grandissimo contenitore, questa parola onnicomprensiva di tante cose, ha diciamo così fatto perdere di vista quelle che all'epoca erano le contraddizioni forti, fortissime all'interno della sinistra, intendendo con questo la sinistra parlamentare ufficiale, che all'epoca era rappresentata dal Partito Comunista Italiano, e dalla sinistra dei movimenti, in particolare degli autonomi, dove questa parola era caricata di significati enormi, insomma quasi sempre dispregiativi. In mezzo sono passate tante cose, c'è passata la fine del PC, c'è lo smembramento, la nascita di Rifondazione, insomma, no? Qualcuno ha pensato di rifondare appunto un'idea che fu chiusa col congresso del 91 da Occhetto, e così via. E nel tempo questi rifondaroli, ma senza con questo volerli e identificare esclusivamente con quei compagni che dettero vita all'inizio, quei rappresentanti, anche quei compagni di base che dettero vita all'inizio proprio all'esperienza di Rifondazione Comunista, nel tempo la categoria della rifondazione, del ritornare alle origini, del ripristinare un'immagine, un'etichetta, un simbolo, una simbologia, e tutto questo, insomma, ha vissuto esperienze diverse. Insomma, è inutile stare qui a fare il lungo elenco di sigle che si sono avvicendate nel tempo nell'ambito di un tentativo di riconvogliare aspettative di tanta gente, di milioni di persone, di lavoratori, di proletari, di disoccupati, di studenti, che ancora avevano un'idea, insomma, non solo di un altro mondo possibile, che vuol dire tutto e niente, ma ancora magari una società comunista o socialista, insomma, quindi un ideale di un certo tipo. E in questo cosa c'entra Valerio? C'entra per il fatto che chi magari all'epoca, e parlo appunto del 1977-1980 fino sicuramente all'omicidio di Valerio Verbano, aveva atteggiamenti molto duri verso gli autonomi, e poi nel tempo magari alcuni di questi, non tutti evidentemente, perché poi ne abbiamo parlato questa mattina abbondantemente di quello che è oggi il Partito Democratico, ma altri che si rifecero viceversa o tentarono di rinverdire i fasti di una tradizione comunista, si sono poi avvicinati talmente alla questione di Valerio, all'omicidio, alla sua vicenda, con risultati e pratiche, io dico fastidiose, ma tra l'altro strumentali, forse il termine più giusto è strumentali, perché da quell'inizio magari, chissà, non le stesse persone, ma sicuramente qualcuno sì, di quelli che erano i critici dell'autonomia, i vessatori, i fustigatori di certi comportamenti, quelli che avevano sempre l'indice pronto ad accusare gli autonomi e chi in qualche modo si comportava in difformità di quello che era il pensiero dominante della sinistra, poi si sono avvicinati, hanno tentato di recuperare questa vicenda portandola quasi dalla loro parte, fino al punto di candidare la mamma di Valerio Verbano, Carla, nelle liste qui al Comune di Roma. Tra l'altro una candidatura che fu brutta, perché non per parte della mamma ovviamente, ma fu brutta di chi gliela propose proprio questa operazione, perché poi alla fine risultò che dai voti presi, insomma dal conteggio dei voti presi, che neanche gli stessi organizzatori di questa lista in pratica l'avevano votata, insomma era, mi sembra, il numero uno qui, proprio la prima della lista, Carla Verbano. Mi sembra che prese circa 100 voti. Sì, una cosa del genere, insomma, e valutammo con un rapido conto che neanche gli stessi aderenti a quella sigla avevano votato Carla Verbano. Questo per dire che è anche un'opera di didattica, ricordare e ripristinare quelle che furono, appunto, non è solo un'operazione nostalgia eccetera eccetera, o un recupero banale della memoria, ma per far capire come i tentativi smussare quelle che erano i contrasti, le asprezze anche di uno scontro politico, ripeto, all'interno della sinistra, col tempo si sono attenuate formalmente, ma probabilmente la sostanza non è cambiata. Quindi, per dirla brevemente, insomma, e senza andare troppo in là, perché se no non c'è un'origine esatta di questo scontro all'interno della sinistra, ma non solo, perché poi il discorso di Valerio ha questi due aspetti. Da un lato è l'affrontamento, uno degli aspetti dell'affrontamento che c'era tra compagni e fascisti, tra militanti di sinistra e fascisti. Dall'altro era la trattazione che ne faceva il massimo organo della sinistra italiana, cioè il Partito Comunista e i suoi giornali, le sue articolazioni, come trattava questa situazione, cioè questo scontro che c'era in atto, questo affrontarsi ripetuto, questa necessità di difendersi sul territorio dagli attacchi che i fascisti facevano, perché insomma, se proprio la dobbiamo dire tutta e senza scendere nella conta dei morti, se so più da una parte o dall'altra, perché so sempre conteggi questi che vanno evitati, perché non hanno significato, però una cosa è certa, che insomma l'inizio, le responsabilità di questo inizio, di queste che furono poi chiamate le faide, le guerre per bande, eccetera eccetera, con le motivazioni più banali, certamente risiede come responsabilità politica storica nella destra fascista e in quella che copriva i fascisti, risalendo alle prime origini, che so, anche prima del 1969, insomma, anno in cui ci fu la strage di Piazza Fontana. A Roma in particolar modo questo ebbe una lunga gestazione, questo scontro con i fascisti, questo affrontamento, perché se ne andava della vita dei compagni, e quindi il problema dell'autodifesa era all'ordine del giorno, le inchieste sui fascisti erano una necessità contingente, non si potevano evitare, bisognava sempre stare sul chi vive, e Valerio era uno di quei compagni che a questa attività si era dedicato con particolare attenzione. E fra l'episodio suo e i precedenti, sicuramente va citato che nel 78 c'è l'assalto alla sede di H. Larenzia con l'uccisione di tre fascisti, e successivamente c'è l'omicidio di Roberto Scialabba, che avvenne al 28 di febbraio del 1978, sì, a Piazza dei Consoli a Cinecittà. Valerio era un compagno appunto della Roberto. Zona Roberto Scialabba era un compagno molto giovane anche lui della zona, e appunto poi questo attentato, cioè questo omicidio fu rivendicato dalla banda Fioravanti, chiamiamola così. Sì, ci sono le confessioni, insomma, su questo ormai documentate, di come avvenne, insomma, come e fu concepito proprio come ritorsione. Su questo Fioravanti in varie occasioni ha dato ampia descrizione di queste cose. Per poi nel 78 non si può, anche se non c'entra, ma come fatto eclatante ci fu poi a marzo il sequestro e successivamente l'omicidio di Aldo Moro, della scorta, eccetera eccetera. Quindi un anno in cui si andavano addensando non solo fatti di questo tipo qua, ma soprattutto si andava addensando una repressione da parte delle istituzioni molto forte, con l'introduzione di leggi antiterrorismo, di atti speciali, in cui protagonista in prima fila fu proprio il Partito Comunista di Enrico Berlinguer, che su questo proprio macinò cose su cose, provvedimenti su provvedimenti, non solo perché rappresentava più di tutti il partito della fermezza contro ogni trattativa sul sequestro di Aldo Moro, ma perché poi appunto sia nel 78, e proprio nel 78 se ricordo bene, mi sembra ad aprile, insomma, ci fu con i voti espressi del Partito Comunista Italiano l'approvazione in Parlamento delle nuove leggi speciali cosiddette antiterrorismo, per poi arrivare rapidamente, insomma, saltiamo, non stiamo a fare troppo lunga, a un altro evento significativo che testimonia di questa perdurante offensiva dello Stato per reprimere i movimenti, dove i movimenti erano ancora attanagliati da questa questione dei fascisti, perché niente affatto, almeno in alcune piazze particolari e sicuramente a Roma niente affatto, le cose si erano sopite. Si arriva rapidamente al 79 con la grossissima operazione dell'inchiesta 7 aprile, questo per testimoniare ancora di che atteggiamento particolarmente pervicace nei confronti dei movimenti c'era da parte della magistratura, sicuramente come organo operante, ma del quadro politico istituzionale come momento di decisione, sempre non dimenticando che, per quanto ci riguarda direttamente, ma come episodio significativo, sempre nel 79 ci fu il tentativo confessato dallo stesso Fioravanti durante una udienza al processo per la strada di Bologna, di voler attaccare direttamente Radio Onda Rossa con un assalto armato, cosa che viceversa non fecero, ma che decisero di spostare questo attacco da Radio Onda Rossa a Radio Città Futura, e ci fu l'assalto a Radio Città Futura con il ferimento delle compagne, donne quindi, che erano lì a fare una trasmissione. Fu sparato a raffica. Poi Fioravanti disse: ma io ho sparato basso proprio per non fare danni, più o meno usò questa terminologia, quasi appunto a voler dire che aveva posto una certa attenzione nel commettere questa azione e quindi insomma questo nel mentre che perdurava questa diciamo da parte dello Stato questo atteggiamento di carattere repressivo, c'era ancora da vedersela e come con le organizzazioni fasciste, insomma, no? Proprio perché si era ormai deciso da parte di alcuni di loro, in particolare della formazione dei NAR, che questo scontro era assolutamente necessario. C'è una telefonata, possiamo prenderla tranquillamente, ci interrompiamo, non è un problema, i microfoni sono sempre aperti. Pronto? Pronto, sei in onda. Buongiorno, senti, io volevo solo ricordare l'attacco che fecero alle compagne di Radio Città Futura, in quanto io credo che i fascisti scelsero bene, insomma, in quanto femministe. Poi che Fioravanti si dice che avevano avuto una particolare attenzione, non è vero, perché alcune compagne furono colpite allo stomaco e alle ovaie, quindi significa che gli ha sparato addosso, non è che gli ha sparato alle gambe. Esatto, primo. Esatto. Alcune compagne si sono portate dietro tutta la vita perché c'era gente che aveva 50 anni a loro, insomma è stata una tragedia che però è stata molto, come dire, tenuta bassa, ecco. Volevo ribadire questo concetto, che i fascisti avevano deciso che sparavano le femministe. Sì. E qualche motivo c'era. Grazie, ciao. Prego, ciao. E quindi insomma giustissime le precisazioni che faceva la compagna per quanto riguarda, insomma, io citavo la deposizione di Fioravanti quasi, insomma, no? Che a volersi presentare come qualcuno che aveva cercato di porre attenzione, insomma, giustissimo. Sì, poi aggiunse pure che si erano un po' spaventati, la situazione era più imprevedibile di quello che pensavano, allora uno si è fatto prendere dal panico e ha buttato una Molotov, cioè questo tanto per... Sì. Perché successe anche questo. Successe anche questo. Ecco, per dare un'idea di quello che era, diciamo, quindi questo clima pesante che si viveva da parte di chi stava nel movimento, cioè da un lato lo Stato e dall'altro i fascisti, insomma, no? Con preoccupazioni molto più evidenti per lo Stato, per certi versi, evidentemente. Insomma, perché non solo perché detentore del monopolio della forza, ma proprio per la attenzione che ormai riponeva contro i movimenti, peraltro già abbondantemente messi in difficoltà anche dai loro errori, ma soprattutto dall'iniziativa dello Stato. E quando scatta l'inchiesta 7 aprile, insomma, non è che vogliamo parlare di quello, ma solo per dare un'idea. È l'unità per prima, insomma, che ne dà notizia con grande risalto, catena di arresti fra Roma e Padova di capi autonomi, tra gli imputati Scalzone e Negri, collegamenti con l'inchiesta Moro. Questo è proprio il giorno dopo, la domenica 8 aprile, ma immediatamente dopo, nell'articolo che scrivono poi il lunedì 9, dice: se l'operazione va in porto stavolta, e leggo dall'Unità del 9 aprile del 79, stavolta non metteremo le mani sui soliti gregari, finalmente riusciremo a entrare nella stanza dei bottoni delle Brigate Rosse. È la confidenza che pochi giorni prima, del 16 marzo scorso, ci aveva fatto uno degli inquirenti impegnati nel caso Moro. Eravamo a caccia di novità per tracciare il bilancio di rito ad un anno dalla strage di Via Fani. Ci era stato detto: è presto per fare il bilancio, avrete da scrivere molto, tra un paio di mesi sta maturando qualcosa di grosso. Qualcosa di grosso era che Negri era il capo delle Brigate Rosse, che c'era una super dirigenza dentro l'autonomia con le Brigate Rosse, eccetera, e quindi tutto era riconducibile a questa sintesi in cui si faceva proprio un cortocircuito spaventoso di tutta questa operazione, di tutte le sigle dell'antagonismo dei movimenti e anche delle formazioni clandestine, e tutto si rimandava a una serie di capi, e questo era visibile, insomma, le menti direttive erano a Padova, i clamorosi sviluppi dell'indagine sulle Brigate Rosse, come si è giunti a puntare gli occhi sulla città veneta, una lunga serie di episodi di violenza, sparite le BR, agivano gli autonomi, pensate un po', insomma, no? Che immaginazione, i primi assassini politici, i rapporti con la malavita, c'era di tutto. Negri interrogato per 4 ore, le prove nel suo archivio, i documenti sono stati scoperti, insomma, ancora falliti i tentativi degli autonomi di ottenere solidarietà nei licei e nel sindacato scuola, si era già in piena campagna contro il 7 aprile. Pertini, il presidente della Repubblica, esprime il proprio elogio all'operato dei giudici di Padova. E quindi anche questo si aggiunse, no, al clima proprio che c'era. E poi ancora altri capi dell'autonomia accusati di concorso nell'assassinio di Moro, tutte cose che poi nel tempo caddero, ma ci vollero anni, ci vollero mobilitazioni, controinchieste, dibattiti, coinvolgimenti di ogni tipo. E questo però non tanto per richiamare quella che fu la vicenda 7 aprile, ma per dire che per tutto il 1979 e fino ancora all'80 e poi ancora, perché il processo è stato lunghissimo, il clima di pesantezza era questo, clima di pesantezza che all'indomani dell'assassinio di Valerio Verbano si registra ancora. Perché? Perché come viene presentato questo assassinio dagli organi di stampa è il modello preferito, proprio il modulo preferito allora dal Partito Comunista, ma non solo, insomma, anche dagli altri che non erano gli altri schieramenti che non erano perfettamente congruenti con la linea del Partito Comunista. Anche qui qual era l'operazione? Di presentare le cose come questa cosa, questa ennesima cosa, e quindi l'assassinio di Valerio Verbano, come un regolamento di conti fra bande, bande di sinistra, bande di destra, bande di delinquenti, comunque di questa storia degli opposti estremismi, così, insomma, simbolicamente definita, per sminuirne non solo la gravità in sé, perché tu dicevi dell'efferatezza, dell'atrocità, no? Un ragazzo ucciso di fronte ai genitori, eccetera, eccetera. Qualcuno potrebbe dire, ma perché, anche se non c'erano i genitori, anche ragazzi di destra sono stati uccisi in modo brutale? Non è questo il punto, perché, ripeto, non ci mettiamo a fare il conto delle morti, a speculare più di qua, più di là, quello è più efferato di quell'altro. È che io credo quello che proprio era insopportabile era il modo di trattare da parte della stampa, dei partiti politici, di queste vicende, come se ci si divertisse all'epoca a scontrarsi uno con l'altro fino anche ad ammazzarsi, perché questo poi è successo. È come se questo non facesse parte né della politica, perché la politica era tutta per bene, era tutta fatta di cose alte, nobili, altisonanti e così via, e queste erano le bassezze di una società, di uno spicchio piccolissimo, di un'infima minoranza, come gli piaceva dire, che quasi si divertiva o non trovava altro passatempo che quello di scontrarsi reciprocamente, senza contare che in gioco non c'erano solo le vite degli uni e degli altri, in particolare parliamo dei nostri compagni, ma c'era anche una difesa di qualcosa. Non c'era solo la sicurezza della propria esistenza, ma c'era anche lo smascheramento di quello che dall'altra parte veniva presentato come un'opposizione in qualche modo legittima a una tendenza comunista della società. No, no, non era questo, perché poi dal 69 in poi si erano sempre dimostrati i contatti tra i fascisti e apparati dello Stato, tra i fascisti e classe imprenditoriale, insomma, volendo riesumarli tutti, tra i fascisti e centri di potere che è inutile citare Gelli, insomma, ce n'è un'infinità di queste cose, le cosiddette trame nere, che non erano soltanto una definizione giornalistica, ma erano proprio questa commistione di interessi, questa funzionalità dei fascisti allo stato di cose dominanti in quel momento. Ma quello che dice ovviamente è assolutamente condivisibile. Volevo tornare sulle modalità, no? Perché soltanto per dire che sicuramente ogni essere umano degno di questo nome, non solo i padri e le madri, si sono identificate sicuramente col dolore enorme, il senso di impotenza per come quell'assassinio è avvenuto e probabilmente anche coi sensi di colpa, no? Che hanno. C'è un rumore purtroppo dall'appartamento vicino, speriamo che non si senta, che hanno insomma caratterizzato poi la vita che è stata breve dopo l'omicidio del papà di Valerio, che è morto di malattia, e poi nella lunga vita di dolore, possiamo dire, di ricordo, ma anche di lotta, di Carla, che insomma ovviamente avrà rivissuto, questo l'ha detto, quel momento, il fatto di aver aperto la porta mille e mille e mille volte. E anche va detto che tutta l'operazione, no, che tu stavi descrivendo, su cui torniamo, della stampa, in particolare dell'organo del Partito Comunista, l'Unità, c'è stata la cosa ancora più sporca di togliere a questo compagno la sua storia, pur così breve, aveva 19 anni Valerio, ma così importante e così intensa, così veramente cosciente per come la viveva Valerio. Quindi togliergli proprio l'essenza stessa del significato della sua vita e anche della sua morte. Questa è la cosa peggiore che non perdoneremo mai. Ecco, qui per darvi un esempio, siamo al 23 febbraio 1980, il giorno dopo l'assassinio di Valerio Verbano. La stampa e l'Unità dell'epoca, qui li abbiamo recuperati, e il titolo, non solo il titolo ma anche l'impostazione della notizia è la medesima per entrambi. L'Unità dice: atroce esecuzione d'un ragazzo autonomo davanti ai genitori. Un ragazzo autonomo, con le virgolette, davanti ai genitori. Subito sotto, il figlio di Alibrandi, killer di Arnesano. Quindi Alibrandi era un esponente della destra estrema. E tra l'altro partecipò all'omicidio di Walter Rossi, l'omicidio 30 di settembre 77. Esatto, e quindi subito mettere insieme le due cose, no? L'omicidio di un ragazzo autonomo davanti ai genitori, il figlio di Alibrandi, insomma, nello stesso occhiello. Ma ancora peggio è il titolino che sta sopra quello grande dell'Unità, che dice, riguarda Valerio Verbano: ucciso dai fascisti o punito perché delatore. Questa era l'Unità. Questo era il Partito Comunista Italiano, di cui alcuni sono finiti poi successivamente in quella lunga serie che dicevo di tentativi di rifondare un'idea comunista, un partito comunista, una simbologia comunista, che hanno poi tentato nel tempo di recuperare tutta questa vicenda, ma non hanno mai fatto autocritica su queste cose, mai che si siano scusati né con la mamma di Valerio né con tutti i compagni che poi a Valerio hanno dedicato tanto. Insomma, aveva 19 anni, l'irruzione di tre killer in casa che imbavagliano il padre e la madre, prima la rivendicazione di un gruppo proletario, poi ci fu anche questo, insomma è giusto ricordarlo, poi in Arl l'abbiamo fatto per vendetta. Ma la cosa più grave, ripeto, è ucciso dai fascisti o punito perché delatore. Voi capite? Quindi lasciando intendere che Valerio era stato ucciso dai suoi stessi compagni in qualche modo, perché sospettato di essere delatore della polizia. La stampa fa la stessa operazione, dice: autonomo ucciso in casa a Roma, insomma, come parlare di un episodio qualsiasi, insomma, no? E lo mette anche qui la stampa nello stesso articolo in cui si parla di Alibrandi, arrestato il figlio del giudice Alibrandi, polemiche e sospetti. E quindi di nuovo insieme proprio l'accorpamento di queste due cose. E nelle pagine interne, sempre del 23 febbraio, l'Unità: i killer per tre quarti d'ora hanno atteso nella casa che il ragazzo tornasse da scuola. Il barbaro delitto, insomma, barbaro, queste cose, atroce, insomma, no, tutta questa profusione di aggettivi, ma la sostanza non cambia. La vittima era stata in prigione perché trovato armato, quindi Valerio. Le rivendicazioni, prima quella di un gruppo proletario armato, poi quella dei NAR. abbiamo usato una calibra 38 e lasciato un'altra arma nell'appartamento. Questo fu il comunicato dei NAR che convalidava, insomma, quello che poi trovarono gli inquirenti nella casa. Sempre il 23 febbraio, viceversa, insomma, la città risponde alla violenza, ecco qui subito, no? Il fatto specifico di parte rivendicato e messo in atto dai fascisti, che viceversa viene preso dalla stampa, dall'Unità, dal Partito Comunista per diciamo esorcizzare che cosa? Il clima di violenza, dove il clima di violenza era un'arma proprio usata a piene mani contro i cittadini, che li terrorizzava più di quanto magari qualcuno lo era pure terrorizzato da solo, ma certamente questo atteggiamento dell'Unità non faceva che soffiare su questa necessità di difesa delle istituzioni a tutti i costi. Ci fu una chiamata del sindaco, all'epoca era scusate, non mi viene il nome, ma mi verrà sicuramente. E la città risponde alla violenza, stamane assemblea di studenti alle 16, comizio Vetere. A Montesano, era Vetere, sì, esatto, e poi i compagni di scuola sono corsi al policlinico, da quando era uscito dal carcere era cambiato, altro tentativo di così inficiare, no, la figura di questo compagno, di adombrare dei sospetti, dei ripensamenti. Valerio, che gli era successo, era stato in carcere, quindi era cambiato. Che vuol dire quel cambiato? Carico di significato, no, di allusione. Il lungo elenco di violenze squadriste nel quartiere, violenze squadriste nel quartiere di Val Melaina, Montesacro. Nella dicitura dell'Unità non so lo squadrismo nero, squadrismo fascista, no, lunga serie di violenze squadriste, perché erano indifferenziate le violenze secondo l'Unità, di destra o di sinistra, insomma. E ancora nei giorni successivi, quando poi c'è stato il corteo, in prima pagina dell'Unità, siamo al 24 febbraio, che è domenica, c'era stato il corteo il giorno prima, tentativi di coinvolgere la città in una spirale di guerriglia, questo in prima pagina, ancora violenze a Roma, un altro ragazzo molto grave, il padre dell'autonomo ucciso, basta con il sangue. E l'autonomo ucciso, vedete, anche qui non c'è nome sta autonomo, non si riesce, proprio l'Unità non riesce a dire il padre di Verbano, il padre di Valerio Verbano ucciso, no, il padre dell'autonomo ucciso. Due carabinieri in borghese aggrediti da autonomo reagiscono, un milite spara, manifestazione dopo il feroce omicidio di Montesacro, l'incontro fra il sindaco e i genitori di Valerio Verbano, e qui c'è la fotografia di Vedere. Che cosa era successo? C'era successa la manifestazione importantissima, poi ne daremo qualche dettaglio da altri organi di informazione. E Antonio Musarella, insieme ad altri compagni, che era presente alla manifestazione, vede arrivare due in Vespa con atteggiamento sospetto, grida ai fascisti, comincia una colluttazione, uno di questi tira fuori la pistola, erano due carabinieri in borghese, spara e ferisce gravemente Antonio Musarella. E ancora dall'Unità del 24 febbraio, la forza della ragione contro il partito della morte, questi erano i titoli che faceva l'Unità nel parlare di quella vicenda. La città deve mobilitare le sue energie migliori per sconfiggere la logica della violenza e del terrore, e siamo venuti qui per dirvi. E poi qui largo spazio a l'intervento di Vetere, che aveva, diciamo così, convocato il partito, l'aveva convocato soprattutto il sindaco, ma soprattutto il Partito Comunista aveva convocato questa manifestazione per dire no alla violenza e al terrore, appunto, indifferentemente, non senza nessuna distinzione, a cui parteciparono poche persone rispetto alla grandissima partecipazione invece che ci fu al corteo dei compagni del movimento per Valerio Verbano. E poi, nel descrivere appunto il ferimento di Antonio Musarella, dice ancora nella stessa pagina: sono fascisti, la rissa, poi il colpo di pistola, ferito gravemente da un carabiniere in borghese, Antonio Musarella, 22 anni, usciti dalla caserma, viaggiavano in due su un Vespone verso Piazza degli Eroi. Invece erano andati lì proprio per il corteo, non è che così a caso, no? Vedete il modo di presentare, erano passati lì per caso questi due carabinieri in borghese. Scambiati per estremisti di destra, la versione dei compagni del ragazzo, hanno sparato con freddezza senza motivo. La polizia, c'è stata un'aggressione. Poi non so se l'hai letto, perché stavo guardando pure io i nostri documenti, i nostri appunti, insomma parla l'unità di un centinaio di autonomi che scatenano la violenza. In realtà si trattò di un corteo, insomma di una presenza enorme che finì, come abbiamo detto, io a corollario insomma di quello che stai descrivendo, in particolare riguardo alla campagna di stampa e anche alla conclusione, nemmeno conclusione, insomma quello che avvenne durante il funerale, cito i Volsci, uscito un paio di mesi dopo, la radio era ancora chiusa, strutturato come una sorta di giornata della radio, no? In cui ogni pagina ha un suo orario e quindi quello, sì, si intitolava proprio Quando parla Onda Rossa. Quando parla Onda Rossa, e quindi poi all'interno ovviamente si parla anche di Valerio. E rispetto a questo, infatti, si dice in questo articolo, che è intitolato Un delitto maturato in ambienti particolari, tra virgolette, quindi citando proprio quello che leggevi tu, ciò che è avvenuto dopo l'uccisione di Valerio, sia sulla stampa di regime che nelle piazze, ha infatti dimostrato che non solo ai fascisti era stato suggerito e permesso di riprendere l'iniziativa, ma che l'assassinio stesso di Valerio veniva gestito dallo Stato come un ammonimento per tutti i compagni. Non c'era nemmeno l'ombra sui grandi mezzi di comunicazione della commossa retorica delle grandi occasioni. Eppure Valerio era stato ucciso inerme dentro casa sua davanti ai genitori. Gli ingredienti, insomma, c'erano tutti per i nostri maître à pleurer, cioè i maestri del pianto, no? Riprendendo i maître à penser, i maestri del pensiero. Ma stavolta niente. In realtà ciò che premeva far rilevare è che quello che gli era capitato Valerio se lo doveva aspettare. Non era forse un autonomo, non era un antifascista, non era conosciuto come un compagno attivo, e allora in fondo gli stava pure bene. Certo, la violenza è una gran brutta cosa, ma come per certi delitti di secondo ordine, anche questo era maturato in ambienti particolari. Ammonire, di più, cercare di terrorizzare tutti quelli che cercano di lottare, di vivere non da clandestini, senza cioè nascondersi o nascondere i desideri e la voglia di soddisfarli. Più avanti, ai funerali di Valerio, l'esempio va ribadito anche a costo di perdere un po' la faccia, lì ad inseguire compagni tra i loculi del cimitero, mentre piangono un po' di dolore, un po' di rabbia, un po' per il fumo dei lacrimogeni. Ma quando a rifiutare i divieti i compagni, malgrado tutto, sono ancora tanti, quando l'assassinio di uno fa esplodere la rabbia di molti, quando la complementarità di fascisti apparati dello Stato si ribalta nella consapevolezza di un nemico comune, nella consapevolezza che ad armare la mano dei fascisti sono gli stessi che quotidianamente parlano e scrivono contro la violenza, allora possiamo forse ancora dire che la durezza della repressione è un segno di debolezza. Sì, direi mettiamo uno stacco musicale. Sì, un momento solo, perché lo sto recuperando. Quello che vi mandiamo, se lo trovo, è un brano che è stato scritto da Paolo Sfissas, lo ricordiamo, il compagno greco ucciso a 34 anni ad Atene a settembre del 2013 da un nazista di Alba Dorata. Lui lo scrisse per ricordare un suo amico morto in un incidente stradale, ma è diciamo diventato poi subito dopo la sua morte una canzone dedicata a lui. Si intitola Isedo, sei qui. Ovviamente è in greco, ma la lingua antifascista è una lingua internazionale. Μια μηχανή αδρεναλίνη πολύ και χιλιάδες γιατί. Γέλια πολλά, όνειρα γλυκά που κάναμε από παιδιά. Σε ένα λεπτό όλα τα όνειρα αυτά ταξίδευσαν μακριά. διαστροφή, ένα γκρίζο πρωί μας άλλαξε τη ζωή. Τώρα που πας και μονοπάτι τραβάς, σε ποιο μέρος θα πας? Έτσι απλά σταματάς μια ζωή και χωρίς το γιατί. Όπου για πας, κοίτα να σε καλά, κοίτα να το χαρείς. Λες σε ξεχνώ, με μια ανάμνηση ζω, στο μυαλό το κενό. Γέλιο λαμπρό, που μες στην καρδιά, θα σε πάντα εδώ. Ήταν πρωί, ο ήλιος είχε χαθεί, δακρυσμένος κι αυτός. Να σε καλά κι από εκεί πάνω ψηλά, τράβα μια τελευταία αγκαζιά. Ένα τραγούδι για σένα και πάμε. Είμαστε εδώ η παλιά σου παρέα, το τραγουδάμε όχι από θλίψη. Δεν σε λυπάμαι. Καλέ μου φίλε, το γράψα για να σε θυμάμαι, ένα τραγούδι για σένα. Οι φίλοι στο χαρίζουν, είσαι εδώ για μας τα πάντα. Γύρω σε θυμίζουν, δεν αλλάξανε πολλά. Εδώ κάτω ακόμα, μονάχα οι Κυριακές που αλλάξανε χρώμα. Ο ρυθμός, όχι, δεν κάνεις λάθος. Σου θυμίζει κάτι από πριν, μα έχει αλλάξει. Κατά βάθος από τις ζωής μου τις εικόνες που αλλάζουν στη στιγμή. Μοιάζω με ακροβάτι πάνω σε φαγωμένο σκηνή. Υπάρχουν καταστάσεις που αλλάζουν όλο σου το εγώ. Και δεν χρειάζεται να είσαι σίγουρος παρά μονάχα ένα λεπτό και ένα αρχικό. Για να δεις και την άλλη πλευρά. Πες μου στα αλήθεια πως σου αξίζει μια αγκαζιά τελικά. Σου μοιάζει λύπη, σου μοιάζει οργή, ίσως σου μοιάζει και θυμός. Όμως και ο χρόνος τώρα μπροστά μου φαίνεται κι αυτός τόσο μικρός. Για να σβήσει από το μυαλό μου την τελευταία εικόνα. Δυο ίχνη από ρόδες του βρώμικου δρόμου, το γκρίζο χρώμα. Το ξέρω σίγουρα κι εσύ θα το σκεφτώσουν κάπως έτσι. Αλλά στα αλήθεια ποιος μπορεί να πει την τελευταία λέξη. Στεγνώσανε τα δάχτυλα, μα το χειρότερο απ' όλα είναι που ακόμα και Κυριακές έχουν αλλάξει τώρα πια χρώμα. Θα μπει εικόνα, το ξέρω πως κάποια στιγμή θα σβήσει. Όμως υπάρχει κάτι στη μνήμη μου που χρόνια θα κρατήσει. Είναι αυτή η δικιά σου τελευταία εικόνα. Εξάλλου υπάρχει και το γένιο σου που το ακούω ακόμα. E allora... Allora sfumiamo anche questo brano, ma era verso la fine, è scritto da Pavlos Fissas e quindi riprendiamo questo lungo, ma giustamente lo deve essere, redazionale sul ricordo di Valerio Verbano e soprattutto riguardo alla manifestazione di oggi a Montesagro, sotto appunto casa di Valerio in via Monte Bianco. Per parlare ancora di quei giorni e di come la stampa, ci siamo particolarmente soffermati sull'unità, perché è quella che dava proprio la tonalità, diciamo, nel trattare questi avvenimenti. E nella cronaca di quei giorni, ancora che seguono il 22, insomma, fu una settimana continua di mobilitazioni, di situazioni, non solo il corteo immediatamente dopo, mi sembra il 24, che era sabato di febbraio, insomma, il grosso corteo, 6-7 mila compagni per le strade di Montesagro, ma poi ci fu anche proprio il funerale vero e proprio, dove successero incidenti qui a Piazzale del Verano, dove dal commissariato qui di Piazzale del Verano furono sparati colpi di pistola verso i manifestanti, colpi d'arma da fuoco, E l'Unità che cosa scrive il 29 febbraio, all'indomani di queste di questa ultima manifestazione? Ancora in prima pagina: ancora attentati ieri a Roma di fascisti autonomi, di nuovo insieme questa situazione. Tra l'altro il giorno prima, il 28, c'era stata anche una mobilitazione a Piazza Don Bosco per ricordare Roberto Scialabba, che era stato ucciso 2 anni prima da sempre dai fascisti, e quindi di nuovo l'Unità mette tutto insieme. Nelle pagine interne scrive: in 100 armati hanno imposto la violenza anche ai funerali, mezz'ora di guerriglia l'altro giorno al corteo funebre di Valerio Verbano, isolati gli autonomi non hanno rinunciato a scatenare gli scontri. Di nuovo con questa logica, gli autonomi isolati che in 100 impongono la cosa e impongono la violenza e così via, e sempre messi sullo stesso piano dei fascisti. Nessuna notizia, se non proprio di sfuggita, di quello che poi sarà uno nel tempo, ma solo nel tempo, elemento determinante per l'inchiesta sull'omicidio di Valerio Verbano, e cioè il famoso dossier di Valerio, che era stato sequestrato dal giudice Sica precedentemente in un'altra perquisizione, e ne dava solo notizia la stampa del 24 febbraio 1980, dicendo che il sostituto procuratore Domenico Sica si è fatto consegnare un fascicolo sequestrato nel maggio scorso dalla Digos in casa di Valerio Verbano. Quindi il maggio scorso era il maggio del 1979. Si tratta di un dossier contenente nomi e indirizzi di giovani neofascisti della zona di Montesagro e una serie di informazioni su UNAR che lo studente aveva raccolto. E il documento, rimasto a lungo negli archivi del Palazzo di Giustizia, potrebbe assumere un ruolo importante nell'inchiesta. Poi verrà fuori che questo documento, il dossier, scompare, poi ricompare, poi a distanza di anni di nuovo oggetto di indagini. Oggi c'è ancora un'indagine in corso, si fanno alcune ipotesi eccetera eccetera, ma insomma all'epoca tutto questo aspetto fu derubricato dall'informazione in favore di quella che rimane proprio la bassezza più grossa che fece l'Unità all'indomani dell'omicidio di Valerio Verbano, scrivendo: ucciso dai fascisti o punito perché delatore? Questo in prima pagina sull'organo del Partito Comunista Italiano, come ancora si chiamava l'Unità. Però a questo punto ci furono, prima leggevamo qualcosa da questo numero dei Volsci che uscì a maggio del 1980, completamente dedicato a Radio Onda Rossa, che era stata chiusa, quindi è quasi un numero monografico, organizzato come un lungo palinsesto di una intera giornata solo in forma scritta, e in cui parlando dell'omicidio di Valerio Verbano non solo si fanno alcune delle considerazioni che abbiamo già letto, ma importante c'è un comunicato dei compagni di Valerio, del collettivo proprio della scuola di Valerio. Sì, è il collettivo del Comitato Autonomo Archimede, e sono i compagni e le compagne di Valerio che in tutti questi anni, insomma ormai più che cinquantenni, perché avevano più o meno l'età di Valerio, oggi sarebbe un signore, come si dice, di circa 55 anni, e io ogni tanto davanti a questi ricordi, ai ricordi di questi morti, appunto mi viene da immaginare come possano essere adesso e che cosa ci è stato tolto, non solo a loro in prima, ovviamente, principalmente, ma quello che è stato tolto a tutte e tutti noi. E i compagni del collettivo autonomo Archimede stilano un comunicato che anche questo lo prendiamo, che fu ovviamente diffuso, lo prendiamo dal numero dei Volsci quando parla Onda Rossa, di cui abbiamo parlato prima. Non lo leggiamo integralmente. Compagni, crediamo sinceramente che non serve a niente fare polemiche intorno alla morte di un compagno, ma è opportuno non dare spazio a tutti i tentativi opportunisti da qualsiasi parte vengano. Pensiamo che alla morte di Valerio i compagni sapranno rispondere nella loro pratica quotidiana, dall'antifascismo militante alla capacità di articolare il progetto comunista attraverso un processo di lotte e di organizzazione verificata interamente internamente alla classe e ai suoi bisogni. Il PC ha provato sporcamente a mistificare la figura del compagno Valerio. Non si può commemorare un comunista, per di più autonomo, senza cercare di trasformarlo in un compagno pentito che si stava ritirando dalla politica. Al pari di tutti gli altri organi di informazione, ha dapprima cercato di intorbidare le acque circa la chiara rivendicazione fascista dell'assassinio, poi è arrivato addirittura a spostare il percorso del funerale per impedire a migliaia di compagni di mostrare la propria rabbia in corteo. Salto, adesso è arrivato puntuale anche il volantino delle Brigate Rosse, che non esita a diffondere dal cielo della politica in cui risiedono pesanti a dir poco giudizi nei confronti delle migliaia di compagni che hanno partecipato ai cortei dopo la morte di Valerio. Vorremmo ricordarvi, signori delle BR, che il giudizio negativo sullo scendere in piazza, data la pesantezza della repressione di Stato, è stata sempre la pratica dei settori più opportunisti, e soprattutto attraverso ciò si articola il tentativo da parte dello Stato di spezzare il grosso lievito di massa anti-istituzionale che si è andato radicando nel paese in questi ultimi anni. Noi crediamo che la difesa dei livelli di piazza, di cui l'autonomia operaia organizzata si è fatta carico con forza anche nei momenti più difficili, rappresenti un terreno ancora vivo nella coscienza dei compagni e dei proletari. Non saremo certo noi a consegnare su un piatto d'argento le nostre forme di organizzazione e di lotta, magari per far contento chi dal suo nucleo d'acciaio predice livelli a breve scadenza di guerra civile. Noi vi diciamo, signori delle BR, di scendere dal vostro piedistallo, definire becchini migliaia di compagni solo perché si ritrovano insieme per mostrare la propria rabbia, dimostra chiaramente quanto viviate lontano dai veri livelli di coscienza del movimento. Questo, insomma, perché cita un comunicato delle BR che usò proprio questa espressione. Più oltre, sappiamo che quando scendiamo in piazza rischiamo di essere arrestati, ma siamo pronti in maniera sempre più organizzata. Qui è un virgolettato, quindi credo che citi ancora il comunicato, ma insomma no, ve lo do col beneficio del dubbio, a correre questo rischio, perché non vogliamo difendere il nostro orticello, ma perché riteniamo importante per un movimento rivoluzionario difendere i propri spazi e verificare internamente alla classe i processi successivi di lotta ed organizzazione, la capacità del movimento di disperdersi e di organizzarsi nel territorio, dimostra come i compagni abbiano saputo adeguarsi ai livelli di scontro. La rivoluzione, lo sappiamo anche noi, non è un pranzo di gala, ma certamente diversi gradini del processo rivoluzionario li vogliamo percorrere parallelamente alla forza di penetrazione che la proposta comunista di stravolgimento dell'attuale assetto sociale ha nei livelli di coscienza di classe. E questo era non integrale il comunicato, appunto, dei compagni e delle compagne di Valerio, del collettivo autonomo Archimede, del liceo scientifico, appunto, di Montesagro, che Valerio ha frequentato fino a quando è stato ucciso. Io penso che abbiamo cercato di ricostruire un po' il quadro politico, soprattutto interno alla sinistra, dove quest'ultimo comunicato internamente alla sinistra mette anche questa polemica con le BR da parte dei compagni di Valerio per alcune posizioni prese in quel momento, ma evidentemente non solo per quello che riguardava le manifestazioni seguite alla morte di Valerio o la figura di Valerio stesso, ma soprattutto più che questa evidentemente la critica, proprio la difformità, la contrapposizione con quella che era la sinistra istituzionale, e cioè il Partito Comunista, i suoi organi di informazione e anche gli altri giornali che non è che si adeguassero a quello, ci mancherebbe, insomma, ma che gli faceva oltremodo comodo questa posizione, questa postura proprio del Partito Comunista giustizialista, assolutamente votata alla repressione, alla omologazione tra destra e sinistra, ma non in senso così semplicemente sul piano della storico o o delle contingenze del momento, proprio tra omologazione tra autonomi e fascisti, proprio omologazione di quella che gli opposti estremismi, questa teoria funesta, insomma, partorita all'indomani della strage di Piazza Fontana, aveva fatto sì che il Partito Comunista si chiamasse fuori da queste contraddizioni, che viceversa avrebbero e lo investivano completamente. E prova ne è che al massimo della sua capacità offensiva dal punto di vista della repressione, al massimo della sua diciamo pervicace atteggiamento di reprimere e di annullare tutto quello che sorgeva alla sua sinistra sotto qualsiasi etichetta e forma, e cioè con l'inchiesta 7 aprile, quindi 1979, e proprio da quell'anno il Partito Comunista iniziò una caduta discendente di voti e di iscritti inesorabile, che 10 anni dopo, insomma, quantificabile nel 20% di perdita sia di voti che di iscritti. Insomma, questi poi sono i risultati. Allora, penso che stiamo concludendo, però volevo fare un'errata corrige, perché è giusto, siamo una radio, ci teniamo. Allora, ho detto erroneamente che il sindaco era Vetere. No, Vetere successe dopo un interregno così di 15 giorni alla morte di Luigi Petroselli, ambedue del PC, che appunto fu sindaco di Roma dal settembre 79 all'ottobre 81, quindi in pieno, ovviamente poi in effetti quando leggevi o leggevo io un articolo, non mi ricordo bene, si nomina appunto Petroselli, e fino all'81 quando morì. E in effetti Petroselli presenziò al funerale di Valerio, ma poi appena se ne andò si scatenò l'inferno, insomma, non vorrei fare citazioni fuori luogo, ma chi c'era se lo ricorda molto molto bene. E allora, per adesso, quindi, mi stai dicendo qualcosa ma non capisco. Allora, per adesso ci fermiamo. No, adesso mettiamo un'altra cosa. Sì, mi dice di rimettere la canzone di Valerio, ma io non ce l'ho pronta, per cui per adesso vi mando una cosa che è comunque assolutamente in tema. Poi magari rimettiamo la canzone per Valerio, e niente, rimanete all'ascolto, perché comunque adesso c'è ancora uno spazio redazionale molto importante che vi annuncerà direttamente la compagna che lo curerà. Io vi ricordo ancora che in tutta Italia sono già partite le mobilitazioni per la giornata di lotta, in appoggio appunto al movimento NoTav. Già da questa mattina presidi in varie città, sono più di 40.